La zanzara con Alessandro Milan. Sono le 18:42 minuti, cari ascoltatori, eccoci qua, siamo in diretta fino alle 21 anche oggi. 800 24 00 24 se volete intervenire, oppure gli sms al 349 238 6666. La zanzara è radio 24.it. Allora, la giornata secondo il TG2. La Commissione UE promuove la manovra economica del governo, colpisce le spese e riduce il deficit, ma le regioni criticano il provvedimento, Formigoni è incostituzionale. Tensioni dentro il PDL sulle intercettazioni, Bondi, dai Finiani osservazioni risibili, interviene l'OCSE, l'Organizzazione sulla sicurezza in Europa, preoccupati per la nuova legge. Arrestato Nicola Schiavone, figlio del boss dei casalesi Francesco, detto Sandokan, blitz delle forze dell'ordine in un vilino bunker a Casal di Principe, nel Casertano. Allarme Buffon per la nazionale azzurra, il nostro portiere inizierà subito la terapia, ma al momento, secondo lo staff medico, non è ipotizzabile una data di rientro. Buffon, chissà se ce la farà rientrare, studio aperto. Vogliamo dimenticare ma non perdoniamo. In esclusiva la lettera dei due fidanzatini assaliti dal branco di Guidonia. Lui massacrato di botte, lei stuprata. Domani il processo d'appello ai quattro romeni. Nessuno sconto, chiedono le vittime. Chi ha massacrato di botte il piccolo Alessandro? Il settimanale Oggi pubblica nuovi fotogrammi che inchioderebbero Antonio Rasero, convivente della mamma del bimbo. Prima ancora che Caterina si svegliasse, l'uomo già parlava al telefono con il suo avvocato. Dopo il pareggio con il Paraguay, l'Italia perde Buffon, il portiere azzurro infortunato potrebbe restare fuori a lungo. Fiducioso Lippi, la squadra c'è, sono certo che ripagheremo i tifosi che ci amano. Confronto serrato fra i presidenti delle regioni e il governo sulla manovra anticrisi. I governatori dicono no, ma Bruxelles promuove la finanziaria. Misure in linea con le nostre raccomandazioni. L'estate non arriva, ma il tormentone Tintarella sì. Gli esperti mettono in guardia sui rischi dell'abbronzatura super veloce. Il tormentone Tintarella anche quest'anno è arrivato, anche se piove almeno al nord. Ottaviano Del Turco, buonasera. Buonasera a voi. Allora, prima devo andare al traffico, però intanto prendiamola alla larga. Questa storia dell'inno nazionale, come la vede lei? Queste polemiche sull'inno? Ma sono ricorrenti, adesso sono diventate anche stucchevoli. Se io potessi scegliere un inno nazionale che mi piace, sceglierei anche qualche melodia anche più bella di Papensiero o dell'inno di Papeni. Cioè, per esempio? No, ma adesso voglio avviare una discussione, un dibattito sulle... Ma penso che l'inno è quello che abbiamo, è quello che abbiamo ascoltato per 150 anni, quindi ce lo teniamo. Teniamoci quello. Naturalmente non è proibito cantare da pensiero, è stupido e antiverdiano usarlo contro l'inno del paese. Vedi, è un patriota antelittera di questo paese. Siamo con Ottaviano Del Turco, luglio 2008, sono passati 2 anni, le accuse, il processo che la riguarda, se non sbaglio, sono corruzione, concussione, truffa, associazione a delinquere, queste sono le ipotesi di reato, è così? Sì, esatto. Che è successo all'udienza? Io leggo da Repubblica, sesso telefonico sulle linee della regione, uffici dell'ente trasformati in alcova, amanti stipendiate come consulenti della giunta, viaggi di piacere in alberghi a 5 stelle, il procuratore Trifuoggi ha iniziato a leggere anche le intercettazioni, le telefonate che riguarderebbero la sua ex giunta. Guardi che l'udienza di ieri non riguardava questi argomenti. L'udienza di ieri era un'udienza davanti al GUP ed era l'occasione nella quale la procura di Pescara doveva spiegare per quale ragione chiedeva il mio rinvio a giudizio. E il rinvio a giudizio è per i reati che lei ha appena detto, concussione, corruzione. La gente aveva capito che io ero rinviato a giudizio per aver dato molti soldi agli industriali privati, poi ha scoperto che invece la politica della giunta che io presiedevo aveva riordinato i conti della regione. Adesso tutti sanno che il governo nazionale sostiene che il modello abruzzese è un modello che dovrebbe essere esportato verso anche le regioni che non sono in grado di reggere i conti della sanità. E che c'entra sta storia del sesso telefonico? Era di questo. Questa è la novità, la cosa di ieri. ieri è successo che il procuratore del Trifugaggio ha detto ci sono delle intercettazioni che avevamo già fatto da 2 anni e queste riguardano una serie di telefonate, noi vogliamo renderle pubbliche. Nessuno ha capito, per esempio in sala, che c'entrassero con le accuse. E ha iniziato a leggerle anche? Sì, ha iniziato a leggerne una. Io sono uscito dalla sala a quel punto perché ritenevo che questo fosse troppo. Quest'una, vabbè, non vogliamo, per carità, ma di che cosa riguardava? Cioè un'intercettazione ambientale, una telefonata? No, un'intercettazione telefonica. Telefonica. Sulla mia utenza e quindi guardava me, una signora che era al telefono con me, ma nessun rapporto con i reati per cui io ero lì. E devo dire la verità, ignoro che esista un reato, se io faccio una conversazione telefonica con lei, qualunque cosa io dica, non credo che possa costituire oggetto di interia della procura, a meno che io non faccia... Cioè il procuratore diceva vedete cosa succede e ha iniziato a leggere le telefonate quando Del Turco era presidente della regione Abruzzo, insomma. Questo sì, devo dire la verità, io ho provato un sentimento di umiliazione che non ha uguali della mia vita, ma ho provato anche un sentimento di sgomento per il sistema giudiziario italiano. Quando dopo 24 mesi, dopo aver parlato di montagna schiacciante di prove, si è davanti al GUP e devi dimostrare quali sono le prove, siccome per 3/4 d'ora il procuratore ha parlato solo delle opinioni di Angelini circa le vicende della sanità abruzzese, ha concluso con questa cosa, cioè tutto meno che le prove dovrebbero inchiodare me e gli altri a responsabilità penali molto grave. Angelini è il suo accusatore, diciamo, il suo accusatore numero uno, che poi è stato arrestato anche lui. Condannato, messo in carcere per bancarotta fraudolenta, per aver distratto 100+ milioni di euro dalle sue imprese, di averle fatti sparire. Il procuratore ha detto, ecco una telefonata tra l'allora presidente Del Turco e una signora, e ha iniziato a leggerla. Esatto. Ha iniziato a riassumerla. Che vi dicevate non ce lo vuol dire? Cioè in questa telefonata... Ma lei è impazzito? Ma come? Io sono contro la pubblicazione di tutte le intercettazioni e adesso io le racconto l'intercettazione di una mia telefonata. Ma infatti, in che paesi viviamo? Luca Sofri oggi nel suo blog dice se c'era un modo per, il modo più maldestro per i sostenitori, per fare un assist ai sostenitori di questa legge sulle intercettazioni, è avvenuto in un'aula del Tribunale di Pescara. Io non sono d'accordo spesso con Luca Sofri. Però ritengo che a me è capitato di avere la stessa impressione, cioè come se qualcuno avesse messo in piedi una pièce teatrale che doveva spiegare agli italiani che cos'è l'intercettazione e come la si usa nei processi penali e qual è la funzione di queste intercettazioni nei processi penali. In effetti anch'io ho pensato che fosse un assist a favore di quelli che vogliono una legge più severa sulle intercettazioni, ma non era certo questa l'intenzione del procuratore Trifugaggio. Che voleva umiliarla, secondo lei? Secondo me sì, voleva dire non siamo riusciti a dimostrare che è un delinquente, ma che è un piccolo mascalzoncello sentimentale, sì, ecco. Ha avuto, non so, adesso non vogliamo entrare, ma ha avuto problemi dopo questa vicenda, insomma, lei mette il dito sulla piaga, perché probabilmente questo era il segnale che si voleva dare. In realtà io ho parlato a lungo con mia moglie dei rischi connessi all'esercizio di una responsabilità politica molto importante come quello che ho avuto nella mia vita. E siccome io sto leggendo con qualche attenzione ciò che accade in Italia, quello che è accaduto a Berlusconi, quello che accade a Bertolaso, quello che è accaduto nel mondo, e cioè l'irruzione nelle vicende giudiziarie di questi problemi per tentare di determinare una crisi dei rapporti dentro la quale poi avere delle insperate e impossibili collaborazioni familiari capaci di fornire quelle prove che la procura non è stata in grado di produrre. Senta, Del Turco, io le devo far ascoltare una cosa che ci disse l'ex presidente Cossiga, che mi disse il giorno dopo il suo arresto. L'abbiamo tenuta, insomma, gliela voglio far ascoltare. Sa, Cossiga parla così per provocazioni molto forti, Cossiga che ha sempre manifestato grande vicinanza e stima. Sentiamo Cossiga che ha detto. Sa che cosa sarebbe molto bello adesso? Se Ottavio Del Turco si uccidesse. Sarebbe un'accelerazione alla riforma della giustizia. Per siccome lui è stato sempre antigiustizialista, per schierarsi si dovrebbe uccidere. il Consiglio Superiore della Magistratura sa come reagirebbe, promuovendo il magistrato che l'ha fatto uccidere. Non so se riuscite a sentire Del Turco. L'ho sentita perfettamente, ne ho parlato anche con Cossiga quando ho avuto la possibilità di farlo. E gli ho detto che quello era l'unico invito che mi aveva rivolto nella sua vita, tra i tanti, a cui non potevo rispondere sì, ma la sentivo di rispondere sì. Ma io le voglio dire una cosa, la dico con grande affetto per Francesco Cossiga, che per me rimane un mito della politica italiana, anche se so che in questo sta attraversando un brutto periodo, gli faccio comunque tanti auguri. La mia libertà, ma anche la sua, cioè della persona con cui sto parlando, per me la mia libertà è la mia vita. Io non rinuncio a questo sentimento di libertà di cui sento di dover rispondere anche con gli atti e i gesti che dovrò compiere. Gli atti e i gesti che dovrò compiere saranno una difesa appassionata dei miei spazi di libertà e anche delle mie telefonate. Senta. Queste non c'entrano niente. Se commetto reati, io devo essere condannato con tutte le aggravanti di questo mondo, perché sono stato eletto dal popolo sulla base di un mandato di fiducia. Ma se questi reati non li ho commessi, e non è possibile per nessuno dimostrare cose che io non ho fatto, non li si può sostituire con il pettegolezzo. Ho ricevuto un messaggio poco fa su Facebook di un mio amico abruzzese che non sentivo da tantissimo tempo, che mi ha detto: ma cos'è, il processo di Pescara è diventato una trasmissione di Maria De Filippi? Mi è sembrato il giudizio peggiore che si potesse dare di un'udienza sacra nei palazzi della giustizia italiana. Com'è che dal PD non l'ha chiamata nessuno? Bersani l'ha più chiamata? Oh, guardi, mi fate sempre questa domanda. Io più ricevo telefonate di individuali, di persone che dicono quello che pensano di questa storia, e sono ovviamente telefonate di solidarietà con me, più avverto molto forte il rumore del silenzio che ha messo in moto il PD. Però, e alzi, guardi, lei il telefono, chiami lei. No, guardi, no, nessuno chiama. Scusi, ma lei vuole solidarizzare con me? Questa è una cosa che non ha fatto. No, a dire perché non mi chiama? Ridicolo. Perché non mi ha chiamato in questo momento? Una notizia, vede, ha fatto bene a chiamarmi. Io le posso dare una notizia. Niche. Oggi si è riunito il gruppo parlamentare del Partito Democratico e il suo presidente ha reso pubblico una dichiarazione molto forte e molto polemica con la Procura di Pescara per quello che ha fatto ieri, e l'ha fatto sia per quanto riguarda il rapporto tra le cose e la mia vicenda giudiziaria, ma ha anche affrontato il tema con cui lei ha aperto, non a caso citando un articolo di Repubblica che è sempre ben informato sulle intenzioni delle procure italiane anche quando sono le più lontane. La presidente del gruppo dei senatori del PD dice: anche se l'intenzione della procura era quella di dare una coloritura alle caratteristiche personali dell'imputato, questo è peggio ancora, è ancora più forte la nostra critica. Io la devo salutare, devo andare al GR, mi dica sì o no, lei è del PD, ancora si sente del PD? No, non per tempo sono uscito dal PD, io sono stato un fondatore di quel partito, però il giorno dopo il 14 di luglio ho scoperto che nessuno dei 45 che con me avevano fondato quel partito pensava che il primo dovere fosse il dovere delle garanzie costituzionali, che è la presunzione di innocenza di qualunque cittadino di fronte alla legge. La ringrazio, Ottaviano Del Turco, buona serata, ovviamente il GR. La Zanzara. E allora alle 19:19, 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta, questa è La Zanzara, sentiamo il TG... 3. Accordo separato per lo stabilimento Fiat in Pomigliano, la FIOM ha confermato il suo no referendum il 22 giugno. I presidenti delle regioni in rivolta contro la manovra irricevibile e incostituzionale, al TG3 in diretta Roberto Formigoni. Intercettazioni, più duro lo scontro nel PDL, i Finiani servono modifiche, Rotondi o passo tutti a casa, l'OSCE all'Italia, modifiche o ritiro. Negato il programma di protezione a Gaspare Spatuzza, il pentito aveva parlato di mafia e politica ma oltre i 180 giorni previsti. Bertolaso interrogato dai PM di Perugia sulla casa in via Giulia a Roma, sull'affitto pagato da Anemone e sui rapporti con la cricca. Le mani della Camorra anche sui funerali, minaccia familiare dei defunti ed azienda. Al TG3 un titolare di pompe funebri che vive sotto scorta. Vuvuzelas, colonna sonora dei mondiali sudafricani. Il suono le Vuvuzelas, l'ossessione delle Vuvuzelas. Dopo magari nel caso la suoneremo in diretta in onore delle Vuvuzelas. No, capito? Andiamo in Sudafrica, lì il calcio lo vivono così, siamo ospiti, dobbiamo cancellargli le Vuvuzelas. Non si capisce perché. Sky TG24. Manovra alla rivolta delle regioni per Formigoni rischia di essere incostituzionale. Ma il provvedimento piace a Bruxelles, apprezzato il taglio alle spese. Intercettazioni, Losce bacchetta il governo, cambi il testo o lo ritiri. Accordo separato su Pomigliano, firmano Cisle e Will, la FIOM dice no. Buffon, mondiali a rischio, Slovacchia raggiunta al 93esimo dalla Nuova Zelanda. Antitrust, Catricalà approva la modifica della Costituzione sulla libertà d'impresa. Inchiesta parte G8, Bertolaso in procura a Perugia, in corso l'interrogatorio. Processo alla Cricca, udienza rinviata a Firenze, il governo si costituirà parte civile. I casalesi perdono i pezzi, in manette, Nicola Schiavone è il figlio di Sandokan. Pari e sbadigli tra Portogallo e Costa d'Avorio, stasera l'esordio del Brasile. Così su Radio Padania Roberto Ortelli ha salutato il gol del Paraguay, ha segnato il Paraguay ieri. Vi dà fastidio, cari ascoltatori? Lippi, gli hanno fatto una domanda dopo il pareggio col Paraguay. Sentite Lippi che ne pensa di Radio Padania. Scusami se è un po' provinciale, però Radio Padania ha fatto una trasmissione tifando contro l'Italia e tifando ma per il Paraguay. Ma che cavolo me ne frega a me di queste cose qua. Voi siete persone di un altro livello rispetto a questo, non dovete neanche parlarne in sala stampa dopo una partita del mondiale, una domanda del genere. Siete persone di un altro livello voi. Sentiamo Oliviero Bea, uno che segue sempre il calcio e con grande attenzione, che ne pensa di Lippi e di Radio Padania? Radio Padania, per l'articolo 21 della Costituzione, poti fare per chi gli pare, adesso siamo seri, che ce ne importa, non è quello il punto. E il problema è che Lippi deve fare bene il suo mestiere di commissario tecnico, non di conferenziere. Insomma, questa polemica dell'inno tiene ancora banco, è inevitabile, tutti i giornali oggi ne parlano, anche perché agenzia di poco fa, il ministro La Russa, il ministro della difesa, ha predisposto il disegno di legge con tanto di testo che prevede le modalità e i casi in cui deve essere eseguito nelle manifestazioni ufficiali l'inno nazionale d'Italia. Lo ha reso noto l'ufficio stampa, forse già nella giornata di domani sarà reso pubblico il testo di questo disegno di legge. Ma insomma, tiene banco l'inno. Sentiamo anche un leghista doc, il sindaco di Verona, Flavio Tosi. Dico che ci potrebbe essere di meglio, per dire il va pensiero, che è un'area bellissima, è un po' troppo lungo, se uno ha un inno così lungo diventa pesante, quindi il va pensiero al limite della lunghezza. L'inno di Mameli, che è corto e giusto, però è un po' insomma banalotto, un po' marcetta. Ci potrebbe essere altro, l'inno nazionale è l'inno nazionale, punto, basta. Punto e basta. Finita così la questione, che ne pensate? Per Flavia Perina, no, Flavia Perina del Popolo della Libertà ce l'ha ancora con Zaia per questo caso poi di un inno che poi è stato suonato, ma è stato montato tutto un caso incredibile. Flavia Perina. Se a Zaia non piace, insomma, se ne assumerà la responsabilità politica, ecco, diverso per un prefetto che magari ci rischia la carriera, però un politico che fa delle scelte se ne assume la responsabilità politica, mica gli possiamo mettere le manette perché non vuole cantare l'inno nazionale o non vuole tifare per gli azzurri. Piange il telefono perché lei le intercettazioni, sempre al centro delle polemiche. Poco fa in apertura di trasmissione avevamo l'ex presidente dell'Abruzzo, Ottaviano Del Turco, che ricordo deve rispondere per accuse pesanti, truffa, concussione, corruzione, associazione a delinquere. Che è successa all'udienza preliminare per decidere se mandarlo a processo? Il procuratore di Pescara, Nicola Trifuoggi, a un certo punto ha tirato fuori un'intercettazione. di Del Turco che parla con una signora e nell'udienza ha iniziato a citare questa intercettazione, che cosa stava dicendo Del Turco a questa signora, che Del Turco sdegnato con i suoi difensori se n'è uscito dall'aula dicendo ma che è questa, una gogna mediatica. Sentiamo Del Turco poco fa ai nostri microfoni. Ho ricevuto un messaggio poco fa su Facebook di un mio amico abruzzese che non sentivo da tantissimo tempo, che mi ha detto: ma cos'è il processo di Pescara? È diventato la trasmissione di Maria De Filippi. Mi è sembrato il giudizio peggiore che si potesse dare di un'udienza sacra nei palazzi della giustizia italiana. Un'udienza alla Maria De Filippi. E poi Del Turco, insomma, di questa intercettazione non ci ha voluto comprensibilmente dire nulla, ma certo ci ha raccontato lo stato d'animo che ha provato. Ho provato un sentimento di umiliazione che non ha uguali della mia vita, ma ho provato anche un sentimento di sgomento per il tema giudiziario italiano. Che vi dicevate non ce lo vuol dire? Cioè in questa telefonata... Scusi, ma lei è impazzito? Ma come? Io sono contro la pubblicazione di tutte le intercettazioni e adesso io le racconto l'intercettazione di una mia telefonata. A proposito di questo, sentite che cosa ha detto l'onorevole Stracquadagno del Popolo della Libertà questa mattina, credo, sulla 7. La 7 che tra l'altro ha un nuovo direttore, pare Enrico Mentana. È notizia di pochissimi secondi fa. Sentiamo. Quel procuratore non è in grado di dimostrare nulla di quello che ha assunto dire in quell'occasione. Che cosa fa? Piglia delle intercettazioni dove si parla, mi scusi il termine, dei cazzi di Del Turco, ecco, e li sbatte in faccia all'opinione pubblica, cercando non di tratteggiare un problema di reato, ma di denigrare o di comunque di sputtanare. Erano conversazioni telefoniche private. Questo di Del Turco è inaccettabile. Piange il telefono. Direttore del TG di La 7, appunto, Enrico Mentana. Avete sentito Stracquadagno dire inaccettabile parlare dei cazzi di Del Turco, questo in un'udienza. Come la vede invece la vicenda delle intercettazioni Marco Travaglio che chiama in causa il capo dello Stato. Politano dice di auspicare un testo più accettabile. Cosa vuol dire più accettabile? Vuol dire che sai che è inaccettabile e chiedi che diventi un po' meno inaccettabile. Ma può esistere una porcata un po' meno porca? Qui abbiamo un gigantesco letamaio, qualcuno deve tirar su qualche cucchiaino di letame, portarlo via, e poi il letamaio diventa una sacher torte. Diventa più accettabile un letamaio solo perché qualcuno ha asportato qualche cucchiaino di sterco? Così Marco Travaglio. Ma oggi tra l'altro La 7 ha regalato molto anche sulla classe politica. Sentite prima Filippo Facci, poi Peter Gomez, giornalisti di Libero, il primo, e del Fatto, il secondo, sulla classe politica italiana. Facci. Crederei nel ruolo dell'elettore come vero selettore alla base dei partiti, se però ci fosse un sistema elettorale che fosse meno cialtronesco di quello che ha riempito il Parlamento della classe parlamentare più mediocre della storia del dopoguerra. Grazie. per essere tenui. Grazie. Prego, è una cosa che ho detto in termini ancora più gentili di come la penso davvero. Questo pensa Facci e anche Peter Gomez, sentiamo. Ci sono associazioni bocciofile che hanno criteri di selezione dei propri iscritti e regolamenti interni che sono migliori e più severi rispetto a quelle dei partiti. Le associazioni bocciofile più severe di quelle dei partiti. Che ne pensate? Siamo alla classe politica peggiore del dopoguerra, come dice Facci? E allora alle 19:34 minuti, prima degli ascoltatori, io voglio fare un gioco con voi, perché sempre sulle intercettazioni è avvenuta una cosa abbastanza esilarante nei giorni scorsi, che ha avuto protagonista Emilio Fede, direttore del TG4, e il presidente della Federazione Nazionale della Stampa, Roberto Natale, il presidente del sindacato dei giornalisti. Intanto ascoltate con attenzione questa frase di Emilio Fede. Insulti al governo e scioperi di piazza, lo dico con grande rispetto del sindacato. Allora, è un po' sfuggente, ve la faccio riascoltare quando parla di scioperi. Concentratevi, sciopero di, sentite. Insulti al governo e scioperi di piazza, lo dico con grande rispetto del sindacato. Allora, scioperi di... Che dice Emilio Fede? Poi la parola successiva. Beh, il presidente della Federazione della Stampa, Roberto Natale... pensa di aver capito una parola che non gli piace per niente, quindi telefona Emilio Fede in diretta. Io ho sentito il modo in cui è definito il nostro sciopero. Se ho sentito bene, è una definizione volgare che ti chiedo di ritirare per il rapporto che cosa, c'è. Cosa? Chi l'ha detto? Scusa? Io ho sentito una definizione di sciopero, l'hai definito come... insomma, mi è sembrato di sentirlo definire in maniera sprezzante, come certe teste che circolano nelle redazioni e fuori. Come certe teste che circolano? Forse è il grande equivoco. Vogliamo risentire la frase di Emilio Fede? Sì, si mangia un po' la parola, ma è abbastanza chiara. Scioperi di... insulti al governo e scioperi di piazza, lo dico con grande rispetto. Scioperi del di piazza, scioperi di piazza, e invece Natale equivoca e insiste. No, che tu hai parlato, per essere preciso, di uno sciopero di cazzo, e questa è una sciopero di... allora ho sentito male io, uno sciopero di cazzo. Detto? Ma guarda che qui stanno ridendo tutti, Roberto, non ti fa allora ridere presto. Io, no, allora scusa, o tu mi chiedi scusa o io ti saluto subito, io non ho mai detto questo, hai capito? Non userei mai questi allora termini. Ho detto una cosa che ribadisco, ho detto uno sciopero contro il bavaglio dell'informazione, che dicono che io non ho visto, che non c'è. Hai usato un'altra espressione, se ho sentito male io te ne chiedo scusa. Posta, chiedi scusa. Emilio Fede infastidito, ma come sciopero di cazzo? No. Ha proprio equivocato. Arturo da Torino, buonasera. Sì, buonasera. Senta, tre cose velocissime. Sherlock Holmes sarebbe il massimo con le intercettazioni telefoniche, e quando è che arresteranno 007 e quando finalmente ai giudici cominceremo a dargli le loro responsabilità. Che vuol dire responsabilità? Cioè? Ma non si può fare come stanno facendo, come continuano a fare, e che ogni volta sembra che stiamo toccando l'onnipotente appena si critica un giudice per quello che fa. Mm. Abbiamo visto con Ottaviano Del Turco, abbiamo visto con moltissimi altri. Ma è possibile che non ci rendiamo conto che questa gente ha in mano tutta l'Italia, ne sta facendo quello che vuole? Adesso non esageriamo, Arturo. Cioè, devo dire, le accuse a Ottaviano Del Turco sono quelle lì che reggono. Il punto non era tanto delle accuse, che Ottaviano Del Turco dice si doveva discutere se rinviarmi a giudizio per quelle accuse gravi. Ma che c'entra? A un certo punto il procuratore ha tirato fuori un'intercettazione nella quale io parlavo con una donna, creandomi anche un'umiliazione non indifferente. Insomma, questa è la versione ovviamente di Del Turco. Detto questo, le accuse rimangono, sono accuse pesanti, certo, poi si vedrà come va a finire. Per lei addirittura hanno in mano l'Italia. Ha detto perfettamente, si vedrà come va a finire. E che dobbiamo fare? Non c'è niente di... è questo che... che dobbiamo fare? Se c'è un'accusa, ci sarà forse un rinvio a giudizio, forse no, una soluzione. Aspettiamo un attimo a vedere come finisce, ma prima di stare lì... E tra l'altro i giornali fanno benissimo a pubblicare tutto quello che gli viene in mano, perché... caspita, è il loro lavoro, Vendono. Già non gli bastano i soldi che dà lo Stato per tenerli in piedi, si immagini un po' se non vendessero nemmeno, cosa succederebbe, no? In ogni caso, lei dice hanno il potere in mano. Arturo, io la ringrazio, voglio andare a Milano, da Giovanni, buonasera. Sì, buonasera, grazie per avermi richiamato e complimenti per la trasmissione. Dica Giovanni. Ma nulla, io volevo accodarmi un po' a quello che diceva il radioascoltatore di prima, cioè sostanzialmente si sta facendo un grosso parlare delle intercettazioni, di quello che dovrebbe essere, di quello che sarà e di quello che non sarà. Fatto sta che, come in tutte le situazioni, è il troppo che stroppia. Allora, che ben venga l'intercettazione telefonica se ha un fine. Sicuramente se si fa un abuso dell'intercettazione, sicuramente è un'arma a doppio taglio. Io non giustifico assolutamente Del Turco, perché l'intervento che ha fatto poc'anzi con lei io lo definisco ridicolo, perché veramente... Perché? ma gli si sono consumati i gomiti veramente a furia di arrampicarsi un po' sugli specchi. Perché? Cioè, in che senso? Su quale punto? Il fatto che sia stata adesso delle accuse del processo, io non ho letto le carte, il processo. No, quello poi non le ho letto neanche io, per carità. Se ci sarà un processo, ci sarà un processo, non lo so, forse ci sarà un processo. Se ci sarà un processo, sarà giudicato, se sarà colpevole pagherà. Questo sì, le però, sue colpe. Però ha capito che cosa è successo tecnicamente in quell'udienza preliminare? Sicuramente un abuso, c'è stato un abuso da parte del magistrato, del pubblico ministero. No, che tra l'altro, mi scusi, il procuratore Trifuoggi dalla procura di Pescara dicono abbiamo iniziato a snocciolare queste intercettazioni perché vi volevamo spiegare, vogliamo spiegarvi il sistema, come funziona, cioè soldi date, consulenze date, certo, alle amanti, no? Questo, esatto, era la ratio della procura, ecco e come magari funzionava il sistema del turco. Magari mi scusi se la interrompo, è probabile o è possibile che ci sia un nesso tra quella telefonata che è stata intercettata e le accuse che sono state mosse verso del turco. Sa qual è il problema? Che forse l'intercettazione uno dice è agli atti, però quando ha iniziato a snocciolarla in un'udienza che sì, non era pubblica, ma insomma poi si sa come vanno queste cose, c'è lì l'avvocato, c'è lì un altro avvocato, c'è l'usciere che ascolta, del turco ha detto io mi sono sentito umiliato, cioè a sentirmi una telefonata, sentite del turco che dice a questa signora, e poi quello, sì, beh, quello sicuramente secondo me lì è stato un po' un abuso, però è altrettanto vero che nel caso in cui un personaggio politico di quel calibro lì, che viene pagato con i soldi di tutti noi italiani che paghiamo le tasse, beh, si doveva sentirsi un attimino mortificato quando faceva questi atti illeciti. Ma questo faceva, questo è il punto, da definire, ma lui è il primo che ha detto se io ho sbagliato pagherò e devo pagare, ma sentirmi sputtanato perché devo sentire che cosa ho detto a quella tale signora, capisce che è una cosa diversa. Quello sicuramente è stato un abuso, però non è nemmeno plausibile, non è nemmeno possibile che ogni qualvolta viene mossa un'accusa ad un nostro politico sono i giudici che sono impazziti. Va bene. Sono inventati tutti. No, ma qua impazzito è nessuno. Grazie Giovanni. Grazie Giuseppe da Bergamo, buonasera. Buonasera. Dica. Io volevo intervenire su Pomigliano. Su Pomigliano, bene, io annuncio tra l'altro che domani alle 7.30 ce ne occuperemo in bianco o nero, cioè alle 7.30 e poi alle 8.30 parleremo di Pomigliano e Fiat, se ha fatto bene la FIOM a non firmare. Dica Giuseppe. Sono un piccolo imprenditore di Bergamo, nato da solo, e quando sento Pomigliano, quando sento i sindacati, gli italiani scappano dal lavoro, i polacchi lo inseguono, lo rincorrono. Tutto qua. Negli anni, quando l'Italia si è formata dopo la guerra, eravamo come i polacchi, dove c'era lavoro corravamo a prenderlo, adesso dove c'è lavoro scappiamo. Quindi lei dice sbaglia la FIOM a non firmare, la FIOM dice è un ricatto questo, certo, perché sennò la produzione rimane in Polonia. No, io nel corso della mia vita ho visto tante aziende fatte fallire dalla FIOM, tantissime. Quindi lei dice sbagliano perché così è la priorità è la tutela del lavoro, insomma, sbagliano clamorosamente e poi ne paghiamo o ne pagheremo, io ormai probabilmente non più, ma probabilmente mio figlio pagherà gli errori di questo sindacato. Va bene, grazie Giuseppe. Voglio andare da Riccardo. Andrea, buonasera. Pronto? Eccoci Riccardo. Allora, il mio è un argomento più soft. Intanto a proposito delle vuvuzela, si chiamano quelle trombe. Viva le vuvuzela. No, io non sono d'accordo perché non si riesce neanche ad ascoltare i telecronici. Ma dai, non esageriamo. Anche se non sbaglio, anche alle coppe intercontinentali in Giappone. Sì, c'hanno le trombette. Quindi spero che non arrivino in Italia. Ma sono che dobbiamo? Ma stiano in Sudafrica, per carità. Siamo in Sudafrica, lì allo stadio vanno con le vuvuzelas, che dobbiamo fargli? Le dobbiamo sequestrare perché ci danno fastidio a noi. No. E poi al riguardo di Radio Padania, buon per loro, non li possiamo certo obbligare a non tifare Paraguay. Comunque l'Italia è 4 volte campione del mondo, probabilmente una nazionale padana che non ci sarà, eppure se ci sarà non vincerà mai 4 mondiali. I mondiali no, però hanno vinto, vincono i mondiali senza nazione. hanno vinto contro il Kurdistan quest'anno. Vabbè. No, è vero, Riccardo, hanno vinto il campionato mondiale delle nazioni senza nazione battendo in finale il Kurdistan quest'anno. Vabbè, vuol dire che noi siamo una nazione e loro no, si accontentassero di questi tipi. Ma le dà così fastidio che no, su Radio Padania esultino? Vogliamo risentirla come è stata l'esultanza di questo Roberto Ortelli, credo, Ortello, sì, esultanza, gliela faccio riascoltare, Riccardo, il gol del Paraguay. Ha segnato il Paraguay! Ma vieni, grazie a Candavano! Ma vieni, Riccardo! Mi dispiace per loro. Per il pareggio, perché poi abbiamo pareggiato. Va bene, okay, grazie Riccardo. Grazie Riccardo, a lei voglio andare e tornare. Pesaro, Arnaldo, buonasera. Buonasera. Nicchè. Volevo dire due parole a proposito della questione dell'inno. Sa, io sono uno di quei 3-4 milioni di persone che non ama in particolare questo inno, ma è una questione simbolica. Perché? Perché l'inno per noi è la cosa che rappresenta l'unità d'Italia fatta 150 anni fa, che non ci piace. Noi, non, questa unità d'Italia fatta ad uso esclusivo dei Savoia, noi la detestiamo, la vogliamo rivedere. Ma noi chi, scusi? Cioè lei... Noi. 3-4 milioni di persone che come me votano per la Lega Nord. Ah, cioè noi è la Lega Nord, lei. Oppure credo ce ne siano anche. No, beh, io sono uno che vota per la Lega Nord. Ma scusi, ma secondo lei i leghisti adesso, tutti i leghisti, vogliono la secessione? Io sono di Pesaro, sono del Montefeltro, e confinante con quei 7 paesi che hanno fatto la secessione in Romagna. Sì, che sono passati di regione. Sì, sì, sì. E che c'entra? No, non c'entra niente. Lei ha detto di Pesaro, non sono di Pesaro. Ah, va bene, vabbè. Sono io, della provincia di Pesaro. Della provincia di Pesaro, Montefeltro. Vabbè, ma comunque... Noi prendiamo il 20% di voti Lega. Noi è sempre la Lega, noi... No, io sono un elettore, non rappresento la Lega. Sì, no, noi, lei si identifica come leghista. Col gruppo. Ma secondo lei fanno bene esultare al gol del Paraguay? Possono tifare chi vogliono, però... No, questo è solo... Io sono dalla parte di Zaia, cioè io tifo Italia, non sono un appassionato del calcio, però quando ci sono i mondiali io tifo Italia. Però quest'inno però non le piace. Arnaldo, io sull'inno voglio salutare un nostro ospite, vale a dire Valentino Parlato. Buonasera Parlato. Buonasera a voi e grazie dell'invito. Fondatore del Manifesto, uno dei fondatori del Manifesto, ma non solo. Uno dei fondatori. Questa storia dell'inno Parlato. Prima si diceva adesso non ci sono così mai tanti estimatori dell'inno a sinistra, quando ieri gli ascoltatori ci telefonavano dicevano quelli di sinistra quando 30 anni fa si cantava davano subito del fascista uno che cantava l'inno. No, non è vero, questo non è vero, solo che però questa euforia degli inni mi sembra oggi, per cui tutti ci dividiamo, litighiamo per l'inno, sembra che proprio la sostanza si è persa e siamo agli inni, insomma. Siamo agli inni. Sai che il ministro La Russa ha pronto, notizia di poco fa, ha predisposto il testo del disegno di legge, verrà reso noto domani, che prevede le modalità e i casi in cui dovrà essere eseguito l'inno di Mameli. E poi probabilmente La Russa metterà anche l'arresto per chi non lo canta, no? Questo non credo proprio. Ma temo di sì, è probabile. Temo con La Russa tutto è probabile. Addirittura, no, dai, non credo. Comunque lei, dell'inno di Mameli che ci dice? Le piace l'inno di Mameli? È un buon inno, cioè diceva così, ne ha parlato bene anche Luigi Pintoro, insomma di una persona per bene, di un patriota come Goffredo Mameli, che è combattuto per la libertà di Roma contro il Papa, insomma che è stato con Garibaldi, quindi va bene, insomma, però non è che è Bach, insomma, ecco. Vabbè, dal punto di vista musicale si può criticare, però come ha detto, guardi che anche Tosi, il sindaco di Verona, ha detto ma basta, l'inno è l'inno e quello è l'inno. Ma com'è sta storia che voi, che anche lei ha detto, credo oggi sulla stampa, Bella Ciao? No, sì, Bella Ciao mi piace di più. Cioè come inno italiano, Bella Ciao? Come canzone, poi come inno italiano ormai c'è questo, sono 150 anni che c'è questo inno, mica va cambiato assolutamente. C'è questo. Senta, ha parlato a proposito di Inno, io vorrei un suo parere sulla vicenda di Pomigliano. Lei oggi ne ha scritto in prima pagina del Manifesto, è il tema economico secondo me più, più interessante di questi giorni. Perché lei è così duro? Cioè, è una tragedia quando i cambiamenti dell'economia e la crisi capitalistica e la globalizzazione, per cui se non mi va a fare un'industria a Pomigliano io la vado a fare in Polonia o la vado a fare in Papuasia, tutto questo significa, come dire, che siamo con un capitalismo che obbliga i poveri lavoratori di Pomigliano o accettare condizioni che li riducono allo stato di robot, come ha ben spiegato sulla stampa di domenica Luciano Gallino, oppure disoccupati. Quindi è l'oppressione. Però addirittura ha parlato, mi scusi, ma perché gli altri sindacati, a parte la FIOM, così come le forze politiche invece dicono, pensa che vogliano firmare un qualcosa di incostituzionale, che renda dei robot... No, hanno firmato qualcosa di incostituzionale, perché sono di fronte all'alternativa, o ti mangi questa minestra o ti butti dalla finestra. E hanno subito, cioè hanno pensato che non fosse il caso di combattere. E adesso le ultime notizie che ho sentito stasera è che mentre prima la Fiat voleva assolutamente la firma della CGIL, oggi ne farebbe a meno. Però voglio dire, non è una posizione, anche per molti lavoratori, dice, è prioritaria la tutela del posto di lavoro. È chiaro che è una trattativa nella quale io cedo un po' da una parte e l'altro cede un po' dall'altra. No, però, cioè io lavoratore cedo parecchio, perché sono in condizioni, leggetevi l'articolo di Gallino, che non è un estremista comunista, ma insomma dove c'è anche la metrica stabilita, i movimenti che deve fare l'operaio, cioè una cosa come un robot. È uno stabilimento quello di Pomigliano, è uno stabilimento quello di Pomigliano con tassi di assenteismo sicuramente anomali, con problemi che si sono verificati. Dove è stata in cassa integrazione da un anno o due. Sì, certo. Ci sono stati questi problemi di assenteismo, voglio dire, sono abbastanza... L'assenteismo si può punire come assenteismo, non c'è bisogno di fare una legge, come dire, che riduce il lavoratore a robot. Questo è il rischio, secondo lei, a Pomigliano? Questo è il rischio firmando quella... è una necessità capitalistica, cioè a questo punto o ti mangi questa minestra o ti butti dalla finestra. Ha sentito prima invece il nostro... La CGIL fa bene, la FIOM fa bene a resistere, ma... Voglio dire, questo è l'obbligo. Però capisce che si assume la responsabilità di dire allora si sta in Polonia, insomma, anche questo poi dopo bisognerà andare a dirlo a chi perde il posto di lavoro. Sì, sì, appunto, ma voglio dire una cosa, in questa globalizzazione, crisi capitalistica, creano delle condizioni per cui lo stesso Marchionne, cioè non è che Marchionne fa questo perché è cattivo, Marchionne fa questo perché la sua impresa deve fare qualche profitto, se non riesce a opprimere gli operai, a sfruttare al massimo gli operai, non fa profitto e allora se ne va in Polonia. Io non dico che Marchionne è cattivo, dico che è un sistema che con la crisi è diventato estremamente oppressivo. Ma guardi, e offensivo della dignità umana. Io però la questione di opprimere o... Cioè il Manifesto di oggi fa un bel titolo, come dire, disprezzo e profitto. Lei pensa che ci sia questo? Salario, prezzo e profitto, noi diciamo disprezzo e profitto. Senta, ha parlato, nel salutarla voglio farle ascoltare un inno, visto che è il periodo degli inni. Ascolti questo inno. Adesso io non lo so se lei lo riconosce, per carità, ma insomma è l'inno della nazionale che oggi esordisce con tutta grande attesa, che non è il Brasile ma la Repubblica della Corea del Nord. Bell'inno. Ma bella musica, insomma. Perché voi del Manifesto state con la Corea del Nord? No, non stiamo con la Corea del Nord, noi del Manifesto, no. Assolutamente no. No, vedo degli articoli comunque appassionati. No, quando la Corea del Nord fa la bomba atomica, voglio dire, siamo preoccupati. Cioè, no, questo sì, come calcio, come c'è... Come calcio siamo per la Corea del Nord. Ma non so, leggo degli articoli su... No. In tutti i modi, guardi, io adesso per fare una confessione, non sono appassionato di calcio e capisco poco di musica. E allora l'ultimo graffio me lo deve dare Valentino Parlato, meglio Parlato Valentino, nato a Tripoli, ma adesso il nostro amico è diventato Gheddafi, c'è anche questo. È diventato il più caro amico del nostro attuale presidente del Consiglio. E lei come la vede, lei che la Libia la conosce? Sì. E come la vede questa cosa? Quale cosa, questa amicizia? Sì. La vedo bene, tutto sommato meglio le amicizie sono meglio delle rivicizie, assolutamente. Cioè. Va bene, la ringrazio Valentino Parlato, prego. Grazie, buona serata, sono le 19.55 minuti, Lino da Genova, buonasera. Pronto? Sì, dica, le piace l'inno della Corea del Nord? Io lo dico, lo dico chiaramente, so che dico una cosa impopolare, io tifo per la Corea del Nord. Io, Lino, io. Ah. Io tifo per la Corea del Nord stasera contro il Brasile. Se resistiamo ai primi 10 minuti sullo 0-0 è già un miracolo. Dica, Lino. Allora, io tanto per cominciare non tifo con la Corea del Nord perché dopo quello che ci hanno fatto nel 66 non posso tenere... Vabbè, no. Ma dai, il 66... Ah, io non dimentico. Lei non dimentica. Chi è che le suggerisce? Chi è che le suggerisce? Perché sono un tassista, avevo delle persone a bordo, fra l'altro, mentre aspettavo, ne ho approfittato per fare una corsa. Ah, perfetto, faccia un sondaggio, chi sta con la Corea del Nord lì? No. Vabbè, dica Lino, dica il suo intervento, no, non guarda, è sulla Corea del Nord. Parlando di cose serie, sì. Io tutto sommato mi considero una persona ignorante e quindi parlo per proverbi, però sulle intercettazioni telefoniche vorrei dire due cose. La prima è che la moglie di Cesare non solo deve essere onesta, ma lo deve anche sembrare. Mm. E la seconda è che male non fare, paura non avere. Ci sono stati politici dell'Inghilterra, degli Stati Uniti, che per molto meno hanno perso il posto. Qui in Italia vogliono addirittura la tutela perché se parlano con le amanti sul posto di lavoro li disturba. Beh, ma secondo lei è normale, voglio dire, le accuse sono una cosa, immagino si riferisca alla vicenda del turco, ma sentire snocciolare una telefonata di cui il cui contenuto non lo sappiamo e del turco ci ha detto ma lei è pazzo che glielo vengo a dire io, con un'umiliazione pubblica, cioè lì a dire che cosa dicevo a una tale signora, può immaginare anche i problemi familiari che ha avuto per questa, per lei è normale, cioè siccome è un politico bisogna sapere che cosa dice a una signora al telefono. Ma mi scusi, se lei viene pizzicato dal suo, non so, il suo direttore, dal suo capo, sì. Mentre sta cazzeggiando con l'amante, il suo capo cosa fa? Si interviene sulla sua privacy? Ma che fa? Che mi fa? Mi dice, che stai facendo? Vai a lavorare? Che fa? Va a mettere fuori, ad affiggere davanti all'entrata il testo della mia telefonata? Non credo, insomma, voglio... No, assolutamente il direttore no, Gianfranco Fabio è una persona sensibile. Quando una persona pubblica sa che deve rinunciare anche a una parte della sua privacy. Anche, che vuol dire anche se telefona alla signora Pinco Pallina che questa telefonata venga pubblicata in maniera... Urbi e Torbi. Corre il rischio. Non deve avere l'amante, non deve telefonare, non deve essere intercettato. No, non è che non deve avere l'amante, ma se... Se viene beccato. Se viene beccato ne paga le conseguenze. Vabbè. Le 20 e un minuto, 800 24 00 24. Questa è sempre la Zanzara in diretta fino alle 21. Sentiamo il TG1. Su Pomigliano accordo separato, firmano CISL, UIL, UGL, FISMIC, FIOM, CGL conferma il no, il 22 giugno referendum tra i lavoratori. Il sequestro di Luca, il neonato di Nocera Inferiore, parla al TG1 il padre, speriamo di non vedere l'infermiera presto in giro. Sequestrati migliaia di macchinari cinesi per l'estetica, pericolosi per la salute, al TG1 consigli di un esperto. Allarme per Gigi Buffon, colpito da una sciatalgia. Lui dice: sono preoccupato per il mio mondiale, stasera esordio del Brasile. Ma come stasera esordio del Brasile? Stasera esordio della Corea del Nord. Ma che il Brasile c'ha tutti i mondiali, ne ha 25, ma chi se ne frega del Brasile? Il TG5. Accordo separato sullo stabilimento Fiat di Pomigliano. Tutti i sindacati hanno firmato il documento dell'azienda, tranne la FIOM. Referendum il 22 giugno tra i lavoratori. L'Europa dice sì alla manovra economica del governo, rispettare gli impegni, no dei governatori delle regioni, così il federalismo è a rischio. Arrestato Nicola Schiavone, figlio di Francesco, detto Sandokan, uno dei capi storici del clan dei Casalesi, si nascondeva in una villa bunker. Buffon si ferma a tempo indeterminato, mondiale a rischio. Nel girone degli azzurri, pari tra Slovacchia e Nuova Zelanda, tra poco debutta il Brasile. Accordo tra Italia e Francia per tutelare le acque delle bocche di Bonifacio. Stop al transito di navi con carichi inquinanti. Secondo alcuni documenti dell'FBI, la mafia voleva ricattare i Kennedy spiando presunti festini a New York con Marilyn Monroe, una vendetta per la lotta anticrimine voluta da Bob Kennedy. Ancora con sto Brasile, stasera debutta la Corea del Nord e questo è l'inno nazionale della Corea del Nord, mi pare senza testo, così mi informa Laura Marchesi dalla redazione, non ha un testo. Il giocatore più famoso si chiama Yeon Tae-sae, In Minui Rooney, il Rooney del popolo, l'unico che ha un blog personale e l'iPhone, gioca in Giappone, tutti gli altri mai visti né sentiti. E ancora hanno un attaccante, Kim Jong-won, che però è inserito nella lista FIFA come portiere. Potrà giocare solo come portiere, però nelle qualificazioni ha giocato come attaccante. C'è l'allenatore che fa pretattica, non rivelerò la formazione contro il Brasile. Solo non abbiamo infortunati. E poi ancora c'è un giocatore, Choi Myung-oh, il quale si è prodotto in questa dichiarazione: se avessi un televisore in stanza passerei tutta la notte a guardarlo, il giorno dopo sarei stanco per l'allenamento. E il frigorifero? Non ce l'ho. Noi in Corea del Nord non ne abbiamo bisogno. A cosa serve? E l'altro giocatore, Ahn Kyung-ak, messo di fronte a un microfono una volta, una domanda imbarazzante: qual è la sua canzone preferita? Impassibile replicò: Kim Jong-il, il nostro sole. Ora, io so, un po' per così, un po' per pena, un po' per... Io tengo alla Corea del Nord questa sera. Cinzia da Bologna, buonasera. Eccomi, sì, buonasera, buonasera a tutti. Dica. Mi lasciano un po' perplesse queste dichiarazioni appunto lì della Padania con queste cose strane dell'inno. Vorrei fare una domanda, se qualcuno mi sa rispondere, vorrei sapere se il cronista di Radio Padania è laureato. Eh beh, che c'entra, non lo so. È significativo. È importante. Perché a lei che cambia? Quantomeno se ha un titolo, almeno un diploma, va. Perché se c'ha, così. Se ha un diploma, lei che pensa? Non ce l'ha? Credo di no. Non ce l'ha. Magari mi ci potrebbe stupire. Se ci ascolta, lo invito a chiamarci, non lo so. Ecco, Roberto, poi volevo Ortega. Dire un'altra cosa, sempre a proposito di questi signori che loro la Padania, che non vogliono sentirsi italiani. Io ho un'altra domanda, sì, soprattutto per i politici della Padania. Vedo che si dà un danno da fare, loro non riconoscono l'Italia, non riconoscono l'inno, non riconoscono niente, ma udite udite, lo stipendio a Roma vanno a ritirarlo, colpo di scena. In qualche caso hanno doppi stipendi. Appunto, anche tripli, quadrupli. Vabbè. Pensi che proprio loro della Lega sono quelli che hanno più doppi, tripli. Ma senta Cinzia, ma lei adesso non ho una statistica per dire che i leghisti hanno più doppi. Sono sicura. Ricordo Buonanno che ne ha 4, però uno stipendio, attenzione. C'è chi ne ha 2 o 3, ma con uno. Questi signori invece della Lega prendono lo stipendio a Roma, più a Varese, Gallarate, eccetera, eccetera. Allora io dico: di che cosa stipendio? Se uno non so, è consigliere. Perché sono anche. C'è un caso di un signore che è sindaco, vice sindaco, cioè tutto lui praticamente. Ma sì, l'onorevole Gianluca Buonanno è parlamentare. No, certo, però Cinzia è parlamentare, sindaco, vice sindaco e consigliere regionale in Piemonte, ma prende uno stipendio solo, Così lui dice. Lui dice, nel senso che non c'è il cumulo delle cariche, ha rinunciato a tutti gli altri. Sarebbe interessante verificare, perché faccio un po' fatica a credere. E come facciamo? Comunque adesso, al di là di questo, io chiedo appunto perché questi signori vanno a Roma ad allungare la manina per prendere lo stipendio. E non poi ce l'hanno con l'inno? Fare dei signori e lasciarlo agli italiani, questo è uno. Altra domanda per il figlio dell'onorevole Bossi, sì, eccetera. Sì. Sto giovinotto che ho sentito proprio una vostra trasmissione, sì, che quasi con orgoglio dice che non è mai stato al sud e si vanta. E qui scatena il problema morale. Ma i suoi nonni, vuol dire che non è mai andato a conoscerli? Perché ricordo al ragazzo che, per usare un'espressione, lo dico in tono benevolo, i nonni del ragazzo sono teroni, perché la mamma del ragazzo è siciliana, quindi una bella terona. Glielo chiederemo, questo è un altro, ma forse non so, forse è nata in Sicilia e poi è emigrata, insomma, al nord. Cinzia, la ringrazio, la pubblicità. E allora alle 20:12 minuti ho il nostro autore Francesco Calderola, mi ha appena portato un'altra notizia che si lega alla Lega. Sentite cosa ha detto poco fa il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Quando le previsioni meteo sono fatte in maniera superficiale, i danni al turismo, la prima industria della regione, sono incalcolabili. Abbiamo stimato una perdita media del 20% di turisti che disdicono le loro prenotazioni a causa del preannunciato maltempo. E questo è un problema che c'è sempre. Ed ecco qui Zaia. È mai possibile che da Roma annuncino pioggia e vento sulla nostra regione e che poi il sole splenda alto nel cielo azzurro? Ora dovremmo discutere di federalismo meteorologico. Il federalismo meteorologico, la nuova sfida del presidente Zaia. Michele da Vicenza, buonasera. Lei che sta in Veneto, splende il sole, Michele? Michele? Pronto? Splende il sole in Veneto? No, è nuvoloso. Ah, e allora sì. A Roma ci hanno semi azzeccato, no? Perché Zaia ha sentito notizia di poco fa. Zaia ce l'ha con chi da Roma prevede pioggia e poi c'è il cielo limpido invece. Io invece volevo ritornare sulla sua richiesta di prima, se riteniamo che questa classe politica. Allora, io ho 37 anni, da giovane mi interessa di politica, non sono iscritto a nessun partito, né sono mai stato, però devo dire una cosa. Io ho sentito due ministri dell'economia, uno, il primo, diceva che c'era un tesoretto, poi nell'arco di qualche mese, dopo le elezioni, qualcun altro ha parlato di Robin Hood Tax, e poi oggi siamo con una finanziaria che è quello che è, con un debito pubblico che non è mai stato così. Prima è la classe politica e la lungimiranza della nostra classe politica. Ma addirittura Facci e Gomez da Libero e Il Fatto dicevano praticamente il primo che è la classe politica Facci peggiore dell'ultimo dopoguerra, mentre Gomez diceva le associazioni bocciofile sono più rigorosi nel farli entrare nei partiti rispetto ai partiti. Ma io non guardo più alle cose che vengono dette e poi qual è la realtà. Non le piace. E poi valutare un po' la classe politica e poter dire che secondo me non è certo la migliore e anzi forse una delle peggiori è che io da 10 anni, se devo citare una legge che mi ha cambiato, migliorato la qualità della vita, c'è stata solo quella del divieto del fumo nei locali pubblici. Per il resto, cioè, negli ultimi 10 anni, più burocrazia, più tasse e basta. Va bene, grazie Michele. 20 e 17 minuti, mancano 13 minuti all'esordio. L'esordio ai mondiali della Corea del Nord, che io attendo con ansia. Giovanna da Genova, buonasera. Buonasera, non so se nello sport si può dire viva la Corea? Ma a livello calcistico, non è che sì, bocca al lupo, certo, a livello calcistico. Certo, ma mi fanno così un po', fanno anche su Sky, facevano vedere gli allenamenti, sembra che siano piovuti da Marte, insomma, è un po' così, probabilmente anche gente seria. Beh, adesso non lo so, cioè, immagino come magari come quel poco che fanno lo fanno seriamente. No, adesso non io ho telefonato per dire due cose. Sì. Una, che la liquido in poche parole, diciamo che io sono un'appassionata di musica lirica e ho sempre pensato, da quando Bossi ha tirato fuori il discorso Va pensiero, come inno dell'Italia, che Bossi non sa che cos'è il Nabucco. Anche Nabucco non è ambientato in Italia. Ma anche lei ieri, ma anche gli altri ascoltatori, ma sai, anche il maestro, guardi che il maestro Muti gliel'ha detto a Bossi: avete sbagliato tutto, non c'entra niente con l'Italia. Ma mettete, non so, Rigoletto, le donne mobile, mettete qualcos'altro. Il Nessun Dorma che qualcuno ha proposto anche. Vabbè, ma Nessun Dorma è ambientato in Cina. Guardi, io sono ignorante. Non... No, io sono un'appassionata e dico, a me piace moltissimo il pensiero, però non è la cosa più appropriata. Hanno sbagliato. Quindi questo uno. La seconda cosa invece, io sono, non so più se esiste destra, sinistra, cose di questo tipo, no? Però diciamo che io ero un'elettrice di sinistra, ma oggi come oggi io rimpiango Andreotti, ma rimpiango Donna Catten, rimpiango queste persone, lo stesso Cassi. Cioè, avevano rimpiange Andreotti, Craxi e Donna Catten. Lei si attirerà di quegli SMS, immagino, di quei messaggi assolutamente contrari. Andreotti, Craxi e Donna Catten. Ma va benissimo, cioè nel senso che adesso i nostri uomini politici hanno successo perché sono sempre in televisione, usano il linguaggio dei bar. Però poi non c'è succo. E che invidia, che manca invece ai politici attuali che aveva Craxi, per esempio? Diciamo di saper fare un discorso politico. Su questo non c'è dubbio. Loro danno le manate sulle spalle alle persone. Su questo, Giovanna, non c'è dubbio. Riguardo ad Andreotti, invece, cosa manca secondo lei? Cosa si è perso di Andreotti nei politici di oggi? Dicono non metteremo le mani in tasca agli italiani. Caspita, nell'ultima finanziaria più in tasca di così. Cioè dice fanno un po' degli slogan. Certo. Ma è come la famosa storia che dicono che la pubblicità passa in televisione, no? La pubblicità, non so, del dentifricio o che. Sì. Uno la guarda distrattamente. Poi però chissà perché quando va al supermercato compra quello che vede in televisione. Insomma, lei dice comunque rimpiange Andreotti, Donna Catten e Craxi. Accidenti, Giovanna, complimenti per il coraggio, si attirerà, ripeto, che ne pensate ascoltatori, come la nostra ascoltatrice prima di Bologna che ha detto del cronista di Radio Padania. Ma cos'è? Non è laureato, non sarà neanche diplomato, ci sono tantissime SMS a dire ma che è questo discorso classista di nostri ascoltatori che dicono io sono diplomato, io non sono neanche diplomato ma sono una persona per bene, che voleva l'ascoltatrice di Bologna. Andiamo a Treviso da Enrica, buonasera. Pronto? Eccoci Enrica. Eccoci qua, buonasera, chiamo dallo Zayastan perché così hanno nominato Treviso ormai in questi ultimi tempi. Lo Zayastan addirittura. Lo Zayastan, sì, noi siamo nello Zayastan. E lei è contenta? Fiera. È contenta? Fiera di esserla, sì. No, ma infatti senza polemiche, però volevo un attimino porre l'attenzione sul fatto che non vedo perché debba essere così tremendo riconoscere che ci sono comunque anche delle distanze, insomma, anche comportamentali, culturali, sociali, mettiamola come si vuole, su non so quanti, 1000+ chilometri di stivale. Ora, è chiaro che l'Italia è una, è così. E a lei sta bene? A lei sta bene? Non tutto. Io... Cioè no, non tutto nel senso che ci saranno delle cose che non stanno bene, come ai siciliani ci saranno delle cose che non stanno bene in Veneto. Ma voglio dire, sta bene che sia una l'Italia o no? Una, ma federalista. Cioè io l'esempio tedesco, insomma, lo seguirei, ecco, insomma, anche se adesso, vabbè, lasciamo stare economicamente, sono tempi bui. No, però il concetto di dire comunque un'autonomia regionale... Sì. Che porti a migliorare certe cose e anche suona un po' a dire perché noi le sappiamo far funzionare meglio e quindi non ci piace più di farle funzionare, no? Noi dico la verità, non tutti, perché il cattivo sta dappertutto, però è vero che tante cose le sappiamo far funzionare un po' meglio, o meglio in mezzo a tanti lazzaroni che ci possono essere anche qui, perché anche il Veneto ha le sue, però sicuramente, cioè, l'efficienza sappiamo abbastanza, abbiamo un modo di vivere, di pensare, per cui, che ne so, a me viene sempre in mente anche caratterialmente, ma sì. E non c'entra il ceto sociale, non c'entra la laurea, cioè io ho visto un avvocato napoletano a Cortina che non voleva fare la fila quando tutti facevano la fila, cioè, allora, ho capito, ma mica solo i napoletani non vogliono fare la fila, no, no, non ma mica... dico ha ragione, adesso era un esempio. Dai, anche a Treviso salterete la fila, sì, ogni tanto, no? Sì, ogni tanto sì, però ci sta sulle scatole quello che salta la fila, no? Cioè, sei napoletano, dire, poi. No, se ci sono delle regole, adesso parliamo anche degli sprechi, non lo so, adesso penso alla sanità, a Treviso siamo anche messi bene, però siamo messi bene perché ci sono state delle cose su cui abbiamo dovuto risparmiare. Lei dice, quindi dobbiamo puntare su questo. Ma mi scusi Enrica, stanno entrando in campo le zanzare rosse della Corea del Nord contro una squadretta, credo il Brasile. Le zanzare rosse sono in campo, tutti a guardare ovviamente l'esordio del Brasile. Questo credo che sia l'inno del Brasile. Sì, vedo Kakà. Si può parlare sull'inno del Brasile? Sì, si può parlare. Cari brasiliani, non ce ne farete più di 10. Io ne sono certo, a noi zanzare rosse della Corea del Nord. Tra poco vi voglio far sentire l'inno della Corea del Nord. Adesso devo capire se... No, non è cantato, mi hanno detto. Sentiamo se c'è l'inno della Corea del Nord. No, c'è silenzio. Ecco la bandiera, forse c'è l'inno. Cantano, allora c'è un testo. C'è un giocatore che piange in maniera copiosa mentre canta l'inno della Corea del Nord. Gianluigi da Bergamo, buonasera. Buonasera. Tiene al Brasile lei questa sera? È uno di quelli banali che vogliono vedere Kakà segnare? Devo essere sincero? Dica. Non me ne frega niente. Non me ne frega niente, vabbè, dica. Non me ne frega niente, nel senso che non sono un grande amante del calcio, anzi, piuttosto gliela do piuttosto dietro, se mi passi il termine. Comunque, il mio intervento, come aveva detto la ragazza prima, è relativo al discorso della Padania, cioè di Radio Padania, il discorso del tifare Paraguay. Allora, nessuno può dire niente se tifano Paraguay e non c'è problema, però obiettivamente è una pratica italiota, come dicevo alla ragazza prima, il tifare contro. Sì, cioè il problema, lei dice, se alla prossima, se tifano Paraguay, bene, ma se alla prossima tifano la Nuova Zelanda, la terza tifano la Slovacchia, allora c'è quasi il sospetto che siano un po', no? Sì, nel senso che... Che poi facciano quello che vogliono, no? Ognuno tifi chi vuole. Io tifo la Corea del Nord, chi è che tifa la Corea del Nord se non in Corea del Nord? Io e i coreani del Nord, credo. Ma va benissimo, ma nessuno... Allora, io tifo Minnesota Vikings, tendo a dire, altro sport, altro stato, altro tutto. Cos'è? Okay. Football americano? Football americano, bravissimo. Ci ho azzeccato. Non so di lirica, ma di football, sì. Quindi, tifo quelli, tifo da 4-5 anni, seguo quelli, mi piacciono loro. Però è una pratica, sarà che forse è un po' troppo anglosassone, però è una pratica del io sono meglio di te, non tu sei peggio di me. E da noi è... Vai in giro nelle tifoserie di calcio, spesso volentieri senti che tu sei peggio di me e non io sono meglio. Insomma, non ti fare contro. Intanto io la devo ringraziare, c'è tra poco, inizia anche la partita e quindi con un occhio guarderò la partita, ma parleremo anche tra poco con un ospite che qualcosa della Corea del Nord, un po' di più di questo stato impenetrabile, ci potrà dire qualcosa. alle 20:33 minuti 800 24 00 24, 0-0 al terzo minuto tra Brasile e Corea del Nord. Massimiliano da Roma, buonasera. Buonasera. Ike. Premesso che a me l'inno di Mameli piace proprio a livello musicale, al di là poi di quello che può essere un significato patriottico che tanto questo paese forse me in testa non ha. È un po' in minoranza lei, non che voglio dire, ma va benissimo. Vabbè. Però al di là mi piace proprio musicalmente, anche paragonato agli altri inni, mi mette allegria, nonostante mi mette proprio allegria, mi piace. Premesso questo, la mia considerazione invece voleva essere sulla nostra tristissima classe politica, e penso che i commenti dei giornalisti celebri di qui sopra siano dei puri e semplici eufemismi, perché c'è la peggiore del dopoguerra, diceva Facci, la io peggiore, penso che sia la peggiore classe politica mondiale, escluse quelle delle dittature, addirittura. E non lo sto dicendo come forzatura, le assicuro. Ma perché? Cioè, cosa di particolarmente? Che è una classe politica che non è una classe politica, nel senso che guardi, però io non vorrei citare Winston Churchill o scomodarlo, però quando chiesero a Winston Churchill perché vi erano dei cretini in Parlamento, giusto per usare questa parola, lei non l'ha usata, lui dice: bene, è la prova che siamo in una democrazia rappresentativa, ci sono i cretini in Inghilterra e sono rappresentati in Parlamento. Cioè, il Parlamento è lo specchio del paese, siamo noi, non è che è un qualcosa che viene catapultato dalla luna, no Massimiliano? Guardi, io penso che effettivamente a partire dal nostro Presidente del Consiglio è molto rappresentativa di quello che noi siamo effettivamente, perché io purtroppo mi trovo spesso a parlare con delle persone che, al di là che non sanno minimamente di cosa gli succede intorno, ma comunque dicono: no, ma fanno bene, perché io farei la stessa cosa al loro posto, perché l'importante è rubare oggi e chi se ne frega del domani. Magari parliamo di gente con dei figli. Ma lei dice la peggiore nel mondo, escluse le dittature, sì, forse. Guardi, ma le diamo anche una motivazione, perché sono persone che fanno tutto, ma parliamo chiaramente della grande maggioranza, perché poi ci sarà sicuramente ci sarà, io non lo conosco, ma ci sarà qualche persona che fa il suo dovere, ma sono lì esclusivamente per curare sono i propri interessi. Va bene, grazie Massimiliano, voglio andare a Milano da Gianluca, buonasera. Buonasera. Io come lei tipo la Corea del Nord. Siamo in due, siamo 0-0, però siamo al sesto minuto, sta vedendo la partita? Sì, la sto guardando. Siamo al sesto minuto, teniamo duro. E perché ti fa la Corea del Nord? Fa simpatia. Dico la verità, fa simpatia, fanno simpatia. Non avevo sentito le interviste che avevano fatto a loro, perché poi non è che le abbiano passate, poi anch'io non sono stato molto attento, però le ho sentite ripetute da lei, tradotte, effettivamente sì, hanno fatto... Insomma, nella loro condizione. Che ne pensa di un giocatore che quando è andato a giocare in Russia le ha detto: non voglio distrazioni, penso solo al calcio e al partito. Cioè, a me fanno ricorda qualcuno a me fanno un po' pena e tristezza. Stiamo parlando di un regime brutale, parliamoci. Sì, no, questo lo so, peraltro vi sono un documentario su la web TV di Vice, molto bello, che loro sono riusciti a entrare in qualche modo con le telecamere dentro, che è una cosa proibitissima. No, qui si scherza anche un po', ovviamente. Il tifo è stare con la Corea del Nord, è perché tutti aspettano il Brasile, con la torsida, giallo-oro, le belle ragazze. Noi stiamo con la Corea del Nord perché così, insomma. Comunque io la ringrazio Gianluca. Io ripeto, c'è qualcuno che... la Corea del Nord l'ha conosciuta o comunque ci può raccontare qualcosa? È Daniele Nastro che saluto, buonasera Nastro. Buonasera a tutti. Lei è marketing manager di Legea, esattamente che cosa fa con la Corea del Nord e non solo? Legea è un'azienda sportiva, attualmente siamo lo sponsor tecnico della nazionale coreana. Lo sponsor tecnico, cioè le magliette, i pantaloncini, i calzettoni, tutto quello che vediamo. Sì. E infatti si vede il marchio, adesso è passato Legea, il marchio che stanno inquadrando lo stopper, credo che sia lo stopper numero 4 della Corea del Nord. Sì. Possiamo farci un po' gli affari vostri? Quanti soldi? Come si fa a entrare in contatto con la federazione? C'è una federazione di calcio della Corea del Nord con cui stipulare contratti? Sì, loro hanno una classica federazione calcistica e ti posso dire che comunque prima della Corea del Nord già eravamo sponsor della federazione iraniana, che comunque ha disputato le qualificazioni della Coppa del Mondo insieme all'Iran. Cioè voi sponsorizzate anche l'Iran, Iran sì. E Corea del Nord. Iran e Corea del Nord, sembra una cosa un po' bizzarra. No, più che bizzarra, Nastro, qualcuno dice, insomma, non è che avete scelto le due nazionali che, per carità, si parla di calcio, ma che rispecchiano i paesi più democratici del mondo, per usare un eufemismo. Però a noi non è che ci interessa tanto la politica, a noi ci interessava la visibilità del mondiale, abbiamo fatto una sorta di scouting di alcune nazionali che potevano rappresentarci al mondiale e appunto pensavamo all'Iran che si qualificasse nel proprio girone, poi in un secondo momento ci siamo accorti della Corea del Nord che proprio tramite la federazione iraniana siamo riusciti a contattare e abbiamo... Come si fa? Scusi, è il regime più impenetrabile del mondo. Come si fa a entrare in contatto con la Corea del Nord? Abbiamo le nostre reti, abbiamo comunque chi opera, diciamo così, sul mercato asiatico. Comunque anche loro vivono... Che mercato? Non vogliamo entrare, ma che mercato? Cioè, stiamo parlando della Corea del Nord, cioè è tutto blindato. La Corea del Nord è blindata, però le posso dire che l'Iran è una nazione di 60 milioni di abitanti ed è molto più giovane e ricca dell'Italia stessa, ad esempio. Sì. Quindi rappresenta un importante polo per noi, anche perché stiamo lavorando bene, posso dire che stiamo lavorando bene anche in Iran. Senta, ma quindi voi avete contattato questi nordcoreani, ma voi di dove siete? Di Pompei come sede? Sì, siamo di Pompei. Siete, cioè sono venuti dalla Nord Corea a Pompei? Sì, sono venuti qui a Pompei. Chi è venuto? È venuto il vicepresidente della nazionale, insieme poi a una sorta di marketing manager c'era una delegazione di cinque persone ovviamente erano liberi, sono venuti tranquillamente? No, erano molto tranquilli, guardi, hanno apprezzato anche la nostra città, hanno visitato gli scavi, sono stati al santuario di Pompei. Hanno passato 4-5 giorni, credo, molto tranquilli, come delle persone normali, quasi dei turisti. Senta, Nastro, qui il problema però, molti anche ci scrivono, dicono, ma com'è possibile, voglio dire, l'Iran, la Corea del Nord, cioè voi non vi fate problemi, dice, sono affari, business is business, gli affari sono affari. Ma anche poi dal punto di vista sportivo. Lei pensi che è bello che comunque abbiamo una nazione che si può dire ormai in conflitto con, è ormai in conflitto con tutto il mondo, che però che cosa bella sarebbe se magari incontrasse gli Stati Uniti d'America? Ma ho capito, sì. Perché questo comunque per noi lo sport, a livello lo calcistico. Sport unisce. No, sì, però questo è quanti soldi vi danno dalla Corea del Nord per essere, se c'è un partito? No, noi al limite paghiamo... Scusi, quanti soldi pagate la Corea del Nord? Ci sono delle cifre che girano sul web, poi comunque sono dati riservati, non posso... Si tratta di centinaia di migliaia, milioni di euro. Sì, di milioni di euro, comunque... Dove vanno questi soldi? Cioè vanno a un regime, questo è innegabile. Prima di tutto che sono... Comunque parliamo di una cifra che è comprensiva anche poi dell'ammontare del valore della merce. No, questo sì, ma anche fosse un euro, cioè non mi dica, io capisco, non voglio fare il puro, l'anima candida, voglio dire facciamo affari con Gheddafi, facciamo affari commerciali con tantissimi paesi, però non mi può dire vabbè vanno al regime e vabbè. Non è che vanno al regime, alla federazione, una federazione che vuole giocare al calcio, che ha un obiettivo, che comunque ha dei costi, perché anche loro hanno dei costi, devono spostarsi in Sudafrica ci devono arrivare, sì, certo. Noi paghiamo la visibilità e a noi ci sta bene questa cosa, di certo non è che alimentiamo la politica coreana. Ma si può parlare, quando sono arrivati a Pompei si poteva parlare di politica, cioè si potevano fare domande? Assolutamente no, ma non ci interessa la... No, ho capito, ma la curiosità, io avessi un nordcoreano gli chiederei, ma Kim Jong-il, non so, potete vedere la televisione, avete un cellulare, cioè sai, le domande che però in alcuni paesi sono domande per le quali... Ma molte delle cose che si dicono sui giornali spesso non coincidono con... Per esempio? Una che ha constatato che forse è esagerata, insomma, incontrando questi cinque nordcoreani, qual è? Vabbè, ad esempio, già questo fatto della, della chiusura e del regime non è che poi sono così rigide, anzi io personalmente le posso dire che ho incontrato delle persone che sono state molto cordiali nei nostri confronti. No, capito, però in Italia sì, non mi pare, non sono rigidi, ci sono... Vabbè, ma noi la politica, cioè noi ci dissociamo dalla politica, possiamo parlare del, dello sport, principalmente abbiamo parlato della famosa partita del... del 66 contro, contro l'Italia. Ah, quella quando, quando ci eliminarono, col finto, eliminarono. Il finto dentista Pak Do Hik, che il spacciarono... dentista che poi noi, loro ci hanno detto che non era spacciarono dentista. Per dentista cos'era invece? Sì, era un calciatore normale che aveva avuto un passato poi... Sa che ma, per esempio su questi io poi la devo salutare, tanto sono sempre 0-0, teniamo durissimo al 14esimo, 0-0, abbiamo, siamo andati anche a tirare un paio di volte sportivamente noi della Corea del Nord. Molti di quei giocatori che dopo la vittoria del 66 hanno festeggiato con un paio di birre, un paio di donne, nel senso di ragazze, pare che rientrati in Corea siano stati processati, accusa di capitalismo, di vizio, di, e alcuni sono, finiti anche a lavori forzati. Se lei solo pensa che comunque è una nazionale che ha tranquillamente, come le altre nazionali, una sponsorizzazione tecnica, anche questo poi sarebbe capitalismo. Allora questi giocatori che facciamo? Dopo, dopo la partita li condanniamo? No, infatti, beh, così dicono che siano stati condannati, però dice sono cose false. In ogni caso voi dite, l'Egea è lì, ci interessava la visibilità, intanto la Corea del Nord attacca. Sì, ci interessava la visibilità, poi tutti magari ci, come lei, diciamo così, ci, ci dicono perché magari avete sponsorizzato la Corea. Non, e anche l'Iran, insomma. Sì, anche... ma non pensate alla pubblicità negativa, noi vi rispondiamo che comunque stiamo avendo milioni, posso dire quasi milioni di telefonate da giornalisti questo di tutto sì, il mondo. Questo sì, quindi è una le posso, pubblicità. Le la pubblicità c'è, cioè, le posso dire, guardi che c'è qualcuno che dice ecco l'Egea, questo è un bel marchio che mi segno, guardi, non comprerò abbiamo, più, non comprerò più niente. Sul, sul no. Financial Times. No. Sì, siete finiti sul... Gli italiani parlavano di questa sponsorizzazione. È vero, siete finiti sul Financial Times, è vero, però ci sono molti anche che ci scrivono, dico io l'Egea non comprerò più nulla perché sponsorizza un, una squadra. Non ci credo perché noi siamo anche sponsor del Palermo Calcio e sono Palermo Calcio e siamo, siamo diciamo così, il primo brand italiano possiamo dire, cioè voi anche sponsorizzate il Palermo Calcio e altre in Serie A? Sì, sponsor, siamo, siamo stati sponsor del Catania, del Livorno, lo stesso Napoli siamo stati sponsor. No, questo siamo non sponsor sapevo. Del Montenegro, della, della Bosnia, dell'Albania. Ah, come nazionali. Sì, del Frankfurt, dello Xerex in Spagna. Ah, quindi insomma avete, avete un mercato molto ampio. Io Nastro la ringrazio, intanto buona partita, la vede almeno la partita certo, della Corelli? Certo, la sto guardando. Al, al 17esimo, 0-0. Chi è, sì. Chi è il più forte della Corea del Nord? Non, non lo sanno. Sì, c'è l'attaccante che gioca in Giappone. Gioca in Giappone. Kim Chul-li. Vabbè, va bene Nastro, la ringrazio, buona serata, buona partita. È l'ultima parte della Zanzara, 20:49 minuti, vediamo qualche ascoltatore ancora se ci sta. Intanto mi ha raggiunto Massimo Calegari. Massimo, buonasera, eccoci qua. Ciao, buonasera, però ora ti va bene? Sì, va benissimo, 0-0 Brasile Corea del Nord, il Brasile all'attacco, ma nulla, nulla, questi, questa squadretta verde-oro non ce la fa, 0-0 e la Corea del Nord ha fatto anche un paio di tiri in porta, uno addirittura ho visto anche il portiere brasiliano si è dovuto impegnare in una discreta parata, ma vediamo tra poco, avete sentito anche poco fa Daniele Nastro della Legea a dire paghiamo, siamo sponsor tecnici della Corea del Nord e dell'Iran, ma gli affari sono affari. Riccardo dalla provincia di Ancona, buonasera, poi parliamo un po' di calcio, dica. Sì. Innanzitutto forza Corea del Nord, anche lei, e siamo già tre, siamo già tre e quindi insomma le zanzare rosse, non potevamo non tifare le zanzare rosse? Per par condicio in verità anche Corea del Nord, anche Corea del Sud. Vabbè, adesso perché è abbastanza raro, no, che due squadre della stessa, certo, stessa Corea siano nei mondiali, già un evento piuttosto raro. Dica comunque. Anche... Niente, io faccio il musicista, però a proposito dell'inno, forse magari qualcuno non l'ha mai analizzato, forse bene dal punto di vista musicale, perlomeno dagli ascoltatori non l'ho mai sentito magari questo tipo di analisi. Però il fatto di volerlo cambiare adesso è fuori discussione perché comunque non è possibile farlo. Però in realtà l'inno nazionale di Mameli ci rappresenta benissimo perché se andiamo a vedere proprio la stesura dal punto di vista sia musicale che del testo, si presta a numerose interpretazioni. Per esempio il testo, siccome non si riesce mai a capire poi come fa, e pochi italiani lo sanno cantare, già ci fa capire proprio la nostra propensione al vago, no? Al mistificare, a truffare un po'. Addirittura, cioè dall'inno nazionale si capisce che truffiamo. Si capisce, oddio, già che siamo un po' così, no? Siamo un po' così. L'ho detto, no, non l'avevo detto, lo fanno anche molto spesso i nostri politici, no? No, sono stato frainteso. E questo si capisce dalla lettura metrica e musicale dell'inno. Addirittura mi ricordo di recente è stato Marchisio che pare che abbia detto no, una cosa, ma e allora era stato interpretato una cosa diversa. Nostro Massimo Callegari qua, Marchisio, vogliamo dirlo che non ha detto? Io ho visto il labiale, l'ha detto, non l'ha detto, ma non ha detto niente. Però gli altri ridevano, eh? Sì, il famoso Roma ladrona. Vabbè, concluda, concluda. Ma niente, così, in fondo se noi lo andiamo a vedere è proprio tipico nostro, quindi c'è questo aspetto comunque gioioso, divertente, mentre invece molto spesso anche vediamo l'inno tedesco, americano, inglese, sono molto più solenni e fanno capire insomma di quasi che ci sia un po' più di serietà, un popolo solenne in fondo, sì, vabbè, dall'inno interessante questo. Grazie Riccardo, sempre 0-0 Massimo. Intanto la notizia più importante del giorno è che la Nuova Zelanda e la Slovacchia hanno fatto 1-1 come sono nel nostro girone, no? E quindi quelle sono nel nostro girone e dalle finestre di casa qualcuno ha sentito anche esultare per il pareggio della Nuova Zelanda, perché così la Slovacchia non ha non ha allungato nel girone, però insomma l'arrivare più complicata l'abbiamo affrontata ieri sera, certo, senza dubbio. Quindi. Nel pomeriggio poi c'è stata una partita, credo si sono addormentati tutti gli spettatori, no? C'è stato un 0-0, non esageriamo, no. È stata tirata, poi insomma sì, il ritmo non cos'era? È sempre... Costa d'Avorio? Portogallo, 0-0, Cristiano Ronaldo ha preso un palo incredibile, Drogba è entrato a mezz'ora dalla fine comunque con un recupero lampo rispetto alle previsioni e ai timori degli ivoriani per l'infortunio al braccio, e è lo stesso girone del Brasile che però ora sta faticando molto, ma del resto nella sua storia di questi 4 anni ha faticato molto di più contro le squadre debolissime che contro quelle forti. Ha pareggiato con la Bolivia, ha perso la Venezuela, che sono le due più deboli del Sud America. Intanto questi brasiliani fallosi tentano con dei falli di battere la Corea del Nord, che tiene duro al 23esimo, 0-0. È già un piccolo miracolo delle zanzare rosse. Massimo da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Buonasera Milano. Spenga la radio però, Giusto, è vero, perché non si sente mai l'intervento dei radioascoltatori al telefono. Adesso noi la sentiamo, dica. Senta, no, io mi relazionavo all'intervento di Zaia, che adesso non vuole essere né federalista nemmeno, però io sono uno che faccio molta attenzione alle previsioni per una mia fulminatura personale. Cos'è per una sua fulminatura personale? Sì. Cioè le previsioni meteo. Zaia ha detto ci vuole il federalismo meteorologico. Cosa dicono a Roma? Che piove e poi splende il sole sul ridente Veneto. Di sicuro il centro-Epson è qualche anno, sono variati anni che ormai fa dei casini mostruosi e non si... Ma non dica così che devo intervenire, no, devo fare l'aziendalista, che anche noi abbiamo le previsioni del centro Epson. Dopo... Tutti le hanno, sono loro che le danno. Però a me è capitato più di una volta, io sono di Milano, di non so, tipo stasera sono le 8.54 a Milano, magari piove da dirotto, e andarmi a collegare al sito e da ovviamente sereno. Vabbè, ma cosa vuole? La nuvoletta fantozziana su di lei che dica se c'è il sole lì in quel chilometro quadrato? Ma vorrei che perlomeno aggiornassero, sto parlando di Milano, non sto parlando di Canicattì, che perlomeno aggiornassero in tempo reale quello che realmente è. Fare una telefonata all'ufficio, ma a Milano sta veramente piovendo, abbiamo detto che era sereno, sta che modifichiamo la previsione. Vabbè, Massimo da Milano la ringrazio, io con lei forse ci sta ancora Marco da Verona, buonasera Marco, deve essere rapido, è l'ultimo ascoltatore. Buonasera, io... Mi spiace per gli altri, ma li porteremo anche nei prossimi giorni, dica Marco. Ero d'accordo con il musicista di prima, che io sono in una banda di paese, una fanfara tra l'altro anche abbastanza conosciuta a Verona, e quando sono l'inno devo dire che comunque la pelle d'oca mi viene sempre spontanea, l'emozione che ci dà è... Sono contrarissimo assolutamente a chiunque insulti comunque o voglia mettere mano al nostro inno. Ma questo se mi consente l'ultima parola, era riferita alla legge sulle intercettazioni telefoniche. devo ancora leggermela per bene, nel senso so che non è ancora legge, non quindi, è ancora legge infatti, però rinuncio alla mia privacy anche a vantaggio di qualche spacciatore o qualche maledente. Perché questo è lo scambio, secondo me. Cosa ridi, Massimo Callegari? A te do la linea dopo il GR per questo, per ovviamente il consueto speciale. Brasile per ora, primi 25 minuti, no? Sono entrati così, sì. Torsida, no? Più tango che samba. Più tango che samba, infatti. Brasile per ora al 26esimo, inchiodato sullo 0-0 dalle zanzare rosse della Corea del Nord. Chissà come finirà, ce lo dirà Massimo Callegari poi nel corso della serata. Grazie a tutti, se volete domani alle 7.30, se no la zanzara domani. Ciao a tutti.